boschi in Lucania sono stati e sono ancora per la nostra popolazione qualcosa di sacro addirittura. Un agrifoglio non lo vedrà mai trasportato dall'acqua, perché il legno dell'agrifoglio, essendo duro e compatto, sulla superficie dell'acqua non galleggia, affonda. Dalla terra dei boschi. Affondano le radici nel passato. Essendo duro e compatto, sulla superficie dell'acqua non galleggia, affonda. Un sistema aureo, quindi gli alberi crescono secondo un modello matematico, per cui anche le spine delle rose, anche le foglie delle rose sono disposte con un sistema aureo, anche gli alberi, l'abete, anche le foglie dell'abete somigliano alla parte del ramo e il ramo somiglia al tronco. imparato a scalare, soprattutto vedendo anche gli altri scalatori, già vedendo come facevano loro, diciamo, abbiamo imparato più o meno la pratica, e poi facendo tante prove in campagna, nei boschi, sugli alberi. Un cielo tagliato tra le foglie, pezzi di cielo. Il fatto del scendere sembra che è più semplice di salire, ma non è così, perché essendo scortecciato l'albero c'è bisogno di molta forza proprio di stringere l'albero per non scivolare, che se non si ha mai inizi a scivolare appena appena non riesci più a fermarti, fai un tratto velocissimo dritto giù. La devo stringere forte per sentirne la consistenza, per farmela passare addosso e scivolare giù, giù, verso il centro della terra. Posso spostarmi tra un tronco e l'altro. Mi sento cullata. È un compito della scalata. Spingo via praticamente un tronco, come facciamo nel bosco quando si va a scegliere l'albero, è quello di arrivare proprio in cima e misurare la circonferenza dell'albero che poi deve coincidere con l'altro albero che si unisce. Sono tutta gialla e mi immergo nei colori dell'autunno. Se ti imbracano non è più una cosa reale. Effettivamente chi ti vede non riesce a capire se effettivamente sei tu. Per me è molto importante fare la scalata senza imbracatura, perché è molto più reale. Ho imparato da sola a danzare, ogni giorno un albero mi insegna a danzare. Un compito della scalata, praticamente, che noi facciamo nel bosco quando si va a scegliere l'albero, è quello di arrivare proprio in cima e misurare la circonferenza dell'albero che poi deve coincidere con l'altro albero che si unisce. La gravità a guidarmi, che puntano verso la terra ma anche verso il cielo. È il senso della realtà che ti dà il bosco. entro in uno spazio vuoto che è colmo della memoria del bosco. Raccolgo un tronco che è pieno di bosco. È fatto di strati come la pelle. Sta composto di corteccia che è un pezzo della mia pelle. Entro nei vasi comunicanti. Il sangue fluisce, ma anche l'acqua del fiume. Radici e torna a essere tronco. Il tronco non è rigido, è morbido e spiralizzato come spiralizzate sono le ossa. Le ossa spiralizzano il corpo. Senso la circolarità del movimento. Sento il peso di ogni il peso di ogni tronco ha un peso diverso e mi direziona nello spazio, mi orienta e anche mi disorienta, mi lascia attraversare. Non sono io che muovo i tronchi, sono i tronchi che mi muovono. Attraversano. Scivolano il mio movimento. Pelle, tronco, tronco, pelle. Pelle, strato, pelle, corteccia. Pelle, corteccia, pelle, corteccia. Corteccia che diventa pelle. Rughe e pelle. Thank you.